Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Crisi finanziaria, crisi economica, rischio default. In poche parole, il rischio che uno Stato possa fallire perché incapace di far fronte ai propri debiti. Abbiamo avviato 2 settimane fa questo nuovo ciclo di trasmissioni dedicate alla storia dell'economia con un parallelo tra la crisi del debito greco, che la scorsa estate ha portato la Grecia a un passo dall'uscita dall'euro, e il dimezzamento del debito contratto dalla Germania deciso nella conferenza di Londra del 1953. Settimana scorsa abbiamo parlato dell'Argentina. Oggi torniamo in Italia. La situazione economica del nostro paese è decisamente più solida rispetto a quella dei nostri vicini greci. Non era così non molto tempo fa, nel 1992, quando il sistema politico franò sotto i colpi di Tangentopoli, dando così avvio alla cosiddetta Seconda Repubblica, proprio in contemporanea con una gravissima crisi finanziaria. Era l'inchiesta Mani Pulite allora che il giudice di allora, Antonio Di Pietro, ricorda così. Mani Pulite è stato un importante centro diagnostico che ha diagnosticato la malattia e ha rimosso la massa tumorale evidente. La chemioterapia politica spetta alla politica, non alla magistratura. Bancarotta, crisi finanziaria, insolvenza. È il rischio che abbiamo corso nel 1992, seppur in un contesto europeo e globale non comparabile con l'attuale. L'imperativo categorico era recuperare credibilità sui mercati, alleggerire il peso degli interessi che cresceva a ritmo esponenziale, facendo impennare il deficit. Una spirale pericolosa, poiché l'alto debito costringeva il tesoro a offrire rendimenti sui propri titoli che superavano il 12,5%. In questa situazione di grande fragilità partì l'attacco alla lira. L'Europa era alle prese con i possibili effetti del referendum danese sulla ratifica del Trattato di Maastricht. Il rischio tra l'estate e l'autunno del 1992 era che il no danese innescasse un effetto a valanga sugli altri paesi. Il mercato reagì e cominciò a colpire le monete meno forti, la peseta e la lira, prime tra tutte. Il 10 luglio il governo Amato varò una prima manovra correttiva da 30.000 miliardi delle vecchie lire. Dalla Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi metteva mano alle riserve, aumentava il tasso di sconto, ma per sua stessa ammissione la credibilità del paese sui mercati internazionali aveva ormai toccato il suo minimo storico. La lira e la sterlina in quel drammatico autunno del 92 uscirono dagli accordi di cambio europei, mentre si rincorrevano in quei giorni voci incontrollate su possibili misure straordinarie da economia di guerra, tra cui il prestito forzoso e il parziale congelamento dei rimborsi dei titoli di Stato in scadenza. La risposta del governo Amato fu la maxi manovra da 93.000 miliardi di lire, la più importante correzione dei conti mai realizzata fino ad allora. Di tutto questo parliamo con il professor Luigi Guiso, che è professore di economia all'Einaudi Institute for Economic Science, che nel 92 era in Banca d'Italia al servizio studi. Buonasera professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, ci aiuti a ricordare che situazione viveva l'Italia in quel drammatico autunno del 92? Dunque, forse conviene fare un attimo un passo indietro al racconto che avete fatto per ricordare un punto importante, che prima di Tangentopoli era stato approvato in chiusura del 1991 il Trattato di Maastricht, che sostanzialmente decideva per il futuro l'adozione di una moneta unica, e quindi c'è, cioè, la cosa un po' paradossale che la crisi di cambio si scatena dopo l'adozione del trattato, però è soltanto in apparenza paradossale, perché di fatto la decisione di passare ad una moneta unica, sebbene, diciamo, con una tempistica abbastanza lunga, idealmente doveva solidificare l'accordo di cambio, però creava parecchio impegno da parte dei vari paesi partecipanti all'allora sistema monetario a mantenere le parità. In una situazione però dove diciamo c'erano molte disarmonie tra paesi, c'era molta eterogeneità, la Germania era alle prese con il problema della riunificazione e aveva bisogno di fronte alle pressioni salariali interne di cercare di contrastarle e di contenerle. Senz'altro potremmo dire che in quel drammatico autunno del 92 insomma si presentò un po' il conto per noi per aver, come dire, raddoppiato il debito pubblico negli anni 80, tanto per ricordare. Esattamente, diciamo, quello che è uno degli scarti fondamentali che rendeva la nostra partecipazione difficile ad un sistema di cambi fissi era esattamente il problema dell'accumulo di debito e della sostenibilità del debito. Nel 92 il debito che era stato accumulato dalla metà degli anni 80 era toccato cifre ormai impetuose e il livello del disavanzo era notevole, per cui diciamo era difficile mantenere quella parità con quel livello di debito. A questo si aggiunge il fatto che un livello di debito tu lo puoi sostenere se hai un quadro istituzionale che ti consente di governarlo. Certo. Ora, quello che succede dopo l'inizio di Tangentopoli, che se non ricordo male inizia a febbraio del 1992, scade la legislatura. Ad aprile del 92 ci sono le nuove elezioni. Mano a mano che passava il tempo dopo l'inizio di Tangentopoli e venivano fuori questa accumulata di scandali, i partiti dominanti iniziano i primi segni di sgretolamento. Sì. Nell'aprile del 92 il risultato delle elezioni di fatto falcidia la Democrazia Cristiana e la maggioranza precedente del pentapartito fuoriesce da quelle elezioni molto molto indebolita. Al punto che il governo, dopo le elezioni del 1992, dell'aprile, viene formato soltanto, mi pare, agli inizi di luglio, il 5 di luglio, cioè il governo Amato nasce il 5 di luglio. Quindi diciamo tutta questa fase di turmoil finanziario, di difficoltà finanziario, di inizio dello scatenarsi della speculazione dopo l'approvazione del referendum francese avviene in un contesto di sostanziale vuoto di potere. Quindi io mi ricordo che quando stavo lì in Banca d'Italia, il problema principale che la Banca d'Italia aveva era di cercare di riempire questa assenza di guida comando, politica, certo. Di guida politica, perché mancava assolutamente. Infatti la preoccupazione che avevano è che bisogna buttare giù un piano di azione che sia, diciamo, un piano di gestione dell'economia e del paese in questa fase dove nessuno è in grado di farlo. Quindi il paese viene colto impreparato su vari fronti, non ultimo il fatto che viene colto senza un'autorità politica, senza il governo. Quindi quando Amato viene nominato e dopo implementa la famosa manovra dei 30.000 miliardi dell'estate del luglio del 1992, di fatto lo fa perché esiste un programma di azione che è stato sostanzialmente messo in piedi. Sì, la manovra di luglio, all'interno della Banca d'Italia. La manovra di luglio, professor Guiso, lo ricordiamo, è quella famosa del prelievo forzoso sui conti correnti, che nell'immaginario collettivo italiano è uno dei passaggi più, come dire, funesti della nostra storia recente. Esattamente. Diciamo, viene ricordata esattamente per quello che lei diceva, cioè per il fatto che tassarono i conti correnti retroattivamente. E il punto qual era? È che qualcheduno pagò la tassa sul mutuo che aveva ottenuto e che gli era stato accreditato su in quel giorno, diciamo, certo. Esattamente, quindi diciamo alcuni fu una tassa odiata anche per questa, beh sì, colpì un po' alla rinfusa, poi si arrivò al settembre amato Varola Maxi stangata da 92.000 miliardi, quella insomma esattamente, un complesso di 120.000 miliardi, perché quella la prima ovviamente non ebbe nessun effetto calmieratore, ormai diciamo il gioco era diventato abbastanza scoperto, i mercati avevano capito che quelle parità non erano difendibili, soprattutto perché non c'era sufficiente accordo da parte degli altri governi a supportarle. La Francia si rifiutava di riallineare perché nel frattempo era in arrivo il referendum per adesione all'Europa, che si tenne poi il 20 di settembre, mi pare. Quindi la Francia non collaborava. La Germania avrebbe dovuto ridurre i propri tassi di interesse avrebbe dovuto rivalutare per accompagnare la svalutazione degli altri paesi, però di fatto nessuno voleva collaborare per cercare di rivedere queste parità e contrastare l'incedere della speculazione cercando di sorprendere. Certo. Grazie moltissimo al professor Luigi Guiso che ci ha condotto per mano nel ricordare quei giorni drammatici del 1992. Buonasera professore, grazie. Grazie a voi, arrivederci.